Hola. Chérie. Cosa cazzo di un duccardo? Puglione. riserve, controllo radio. Chi è, Danilo? Sì. Marcolino Condo. Mia Natalino. Ciao Danilo, Marco da questa parte. Non stavo facendo delle piccole prove, vedere se stavo iniscando in queste condizioni. Senti se ci innesco, 1, 2, 3. Ciao Natalì. Ciao Marco, buonasera. Danilo non mi ha copiato. Sto innescando Natalì? No, negativo, mi stai innescando. Ti ho salutato. No, non stai innescando. Via, grazie. Stavo provando una copiata ulteriore. Va bene. Buona serata a tutti, ciao. Ok, ciao. Ciao Marco. Natalino. Natalì. Oh, eri meglio prima, sì. Il 5, ok. Hola. Capo di ghiaccio, sei fortissimo. Mi devo un po' pensa. No, adesso sono 5 watt. Com'è? Dice la radio anche migliore, così mi hanno detto. Sì, sul 3 del più 30. Non so quanto arrivo io da te. Tu arrivi sul 3 del più 30. Tu sei 9,25 passato. La mia bene va la radio, sì. Perfetta, ottima. Niente, sto usando quel preside che mi hanno mandato, che poi pensavo che era 40 canali, invece no. C'è quello HI e Love e va a 80 canali praticamente, 40 su, 40 normale. E poi l'hanno fatto la modifica e ci due forti, andare. No, va bene Tony, va benissimo. Ecco, è un ragazzo che è OM pure da Milano. Per il prezzo che l'ho pagato è regalato, guarda. No, va bene, di lusso. Beh, cosa mi convidi di bello? Niente, tu lì a casa, tu lì qua. Nudda, niente di bello, niente di particolare, a casa, dove c'è casa? Riferite malattia. Mi domi, avanti. Buonasera, mio hermano, come va? Tutto che? Ehi. E allora, piazzato da questo super CD? No, perché a parte che non l'ho fatto perché mi manca anche la batteria, faccio tutto il lunedì e buonanotte. E infatti, senza avere fretta. Ma la batteria te la posso dare io una, ce l'ho. Ma mi manca lo spinotto, c'è un putto e capo. Dai, già me lo faccio, amico mi prende la delta. No, la delta, non ti diciamo, è come Master Plus. Cioè? Il microfono da cavo mi prende Gianni adesso, lo faccio amico, ve l'ho già. Porcheria va in giro, c'è porcheria, no. Su internet c'è porcheria, quello che mi ha dato Danilo qua non va bene, va bene da Claudio, c'è benissimo. Cazzo che casino, per carità. Ciò te l'ho detto, lo mettevi quello lì dove non andava bene a casa, lo mettevi da Maria, e la so che c'è da Maria lo mettevi a casa, era fatto più. E sono andati a me? E cosa c'è? Cosa da non andarsi a me? Ormai è andata così, pazienza. È andata così. Dai, lo procurerò uno, cosa ne so. Ma io spegnete il barattino, eh? Io cazzo. Dove? Dove? Non sta uscendo. Sto facendo Maluccio, ciao a tutti. No, sono così che sto provando a poccarti la radio al compare, però non c'è nessuno, quindi sono venuto a casa. E, c'è il rumore di aerosol qua. Ciao Tino, mi hai sentito, buonasera. Ciao, sì, il microfono. Io adesso ho un po' di rumoraccio. Ciao Moscoletti. Sì, buona. Comunque già avevi ragione, Sarne, Super Cider Kick. Cider Kick, Side, si dice Side Kick. E insomma, Siderica, Cider Kick, Cider Cocco, Super Cocco, sempre super. Side Kick vuol dire calcio d'angolo in inglese. Siccome quello lì lo usavano in banda laterale, calcio laterale vuol dire Side Kick. Ma proprio la maniera come va vedendo, Tony? Calcio Frazego, una roba di microfoni di super super kick. Vabbè dai, da parte di questo rumore? Ma io spagnetto e sti baracchini andate a mangiare, dai. Mi lo vedi, no, io devo uscire tra un po' a fare il fuoco. Ehi, tanto del fuoco ci vuole, qua ci vuole il riscaldamento. Oh, stavo provando una radio poc'anzi, claro, però non c'è nessuno. A vedere se c'è solo Daniele, già, ma Daniele è vicino a me. Sono con un antennino della macchina, fuori là, nel container. Ciao, paga, buonasera, no, mi sto preparando, stiamo a portare il cane, sono entrato a salutarsi. No, non c'ero io poco fa, non c'ero, sono rientrato e ero tra lì in campagna da Liendieba. Dai, riprendetela, ciao Gianni, Tonino, Luca e compagni, e Tino e così via, dai. Ciao, avanti, Tony. Papa Claudio, Fuoco Rix di nuovo, e ci sentiamo, avanti già. Dai, ciao Claudio, dai, fa una passeggiata col cane e poi già ci sentiamo più tardi magari se capita, avanti Tino. Break. Registrato. Va bene, tu dai, nel caso c'è coincide domani, trovo per farla bene, e ti chiamo, così mi dai un controllo. Avanti il break, buona passeggiata, cara. Avanti il break. Capo, buonasera a tutti. Mia, tu eri bombolotto, ciao tu. Come ti mangi a rivendi così forte, Donè? Non ho capito, a tu. Sei un bel forte, sì. Mi sono messo sotto al cento. Ma non pensavo che rimaneva sempre bassino. Te l'ho detto che sollevavo l'antenna. Certo, dove vinti sei nonchi? Oh, a proposito di antenna, chi è che ne ha una da balcone da prestare? Io ho tutte e cinque tavi. No, cinque tavi non ne metto. Da prestare in un coso, capito? Quindi mi serve da... Da mettere, non da lasciarla fissa, ecco. Un bazooka ti interessa? Non lo so, Tony, se va bene. Io sto andando con la PLC 2001. Guardati che quel bazooka è un'antenna di... Ma, non voglio dire una parolaccia, ma è di antenne proprio da Drenzi, eh? Allora lascia fare, non me lo proporre neanche. Eh no, te lo sto dicendo, tu c'è una così, te lo fai, non so ascoltare, boh, perché proprio quarto d'onda di si terra a terra, me. Non so perché la conosco, ce l'ho, la sbuccia la base. No, guarda, devo dire la verità, ha un bel piano di massa questo container qua, quindi non lo so, adesso vedo l'appiatto lateralmente, e credo che vada bene uguale. Tu adesso che antenna stai usando? No, vabbè, adesso sono a casa, già, adesso sono la Mantova. Ah, guarda, io ho usato per periodi la 2001, la tubo 2001 dalla finestra, e andava benissimo. E ho messo una lamiera larga e l'ho usata per un po' di tempo, poi vabbè, ho messo l'antenna su. Però ho usato la cosa, la... come si chiama, la boomerang, che mi dava un bel stazionare, quella lì invece stazionare non ne aveva, andava bene, parlavo con tutti. Ho capito, no, allora faccio una cosa, domani l'ho provata così, però vabbè, ho parlato con Daniele, diciamo che è a due passi ed arrivavo 9.15, 9.10, vabbè, tenendo conto che era altezza uomo, domani la metto sopra il tetto, vediamo come va. Va bene, dai, fate girare, Tonino. Ehi, all'interno di Tonino. Capo, un attimino che sto parlando al telefono, ho detto subito. Sì, vado al telefono. Ecco un attimino. Antonio Bombolino. Aspetta un attimo già che non trovo una cosa. Ma cosa è smarrito? Luca. Sì, sì. Manicomio. Oh, ecco qua, l'ho trovato. Ecco la risposta. Vediamo, ma su, che ti indietro e la giubboccio. Vabbè, succede, dai, succede. Intanto come va? Cambia microfono Gianni, ciao Gianni, ciao tu. Ehi, ciao, buonasera Giulio. Il microfono perché a volte esci bene, a volte vai abbassato, a volte sparisci. Ciao Tino. È il tasto questo qua che bisogna premerlo forte, perché sennò siccome è quadrato, quando lo premi forte se non premi forte forte non ti fa uscire. Ah, ho capito. E allora Giulio? Ciao, ciao sì. Vabbè. Non mi stavo ascoltando adesso. Ma sì, Gianni le fa quel difetto al microfono, ma comunque se lo risolve. No, ma le volte ho visto che fa anche un po' di frastuolo, un po' di baccano col microfono, forse è troppo alto già, non lo so. Praticamente il tasto quadrato questo microfono ti penetra nelle dita, quindi a volte la forza e poi una pressione devi fare allucinante per abbassare. Gli americani vogliono fare per fare una cavo di cavo, questo è una statica, non è un microfono di cavo. Sì, per come esce alle volte è proprio di cavo, nel vero senso della parola. Un microfono buono che hai tu, usa saletta sempre per tutti, che va a meraviglia, la grande. Vabbè, comunque fai come credi. Avanti Antonio Bombolo. Capo, ogni tanto manca, ma vabbè. Già si può rimettere a posto il microfono, dai. No, ha diversi attacchi saletta, giù, se non lo uso per qualche motivo, ha diversi attacchi. Che fai la stazione e lo usi tutta la radio, cosa? Con il microfono buono che hai ti usi questo che ti ha ogni tanto un problemino. Vabbè, comunque fai come credi già, no, non è solo io che te devo imporre niente, per carità, ci mancherebbe altro, me ne guarderei bene. Avanti Tino. Così, no, effettivamente già devi schiacciare bene il mic perché a volte vai a sparire. Comunque la radio è bella, bella chiara, bella forte, tanto di cappello. A me mi sta dando fastidio invece questo qua, il più 5 che ogni tanto va importante da solo, infatti ogni tanto devo dargli un colpetto, però ormai questo c'è, questo lo speriamo. Antonio, bombo. Cappa, la gente che la zarra usa, che intende di prendere un vetretto. Cappa. Un attimino mi date che chiudo un cernaio che sta entrando un po' di aria freschina. Sì, Antu, fai pure, dai. Cappa, facci la Luca anche, vediamo un po', Luca ci sei? Luca deve essere impegnato, dai. Riprendi tu Giulio, buonasera. Cappa, non esci da Parnacchi. Ok, riprendo io. Sì, già, ma non è solamente il fatto, perché quando esce bene, non ci sono dubbi, però io noto che quando schiaccia le volte c'è un fracasso del diavolo anche in quel microfono, non so, forse è come muove la mano i contatti, non lo so, però comunque va bene lo stesso, non è che non va bene, già ti sopportiamo lo stesso già, e ti sopportiamo e ti supportiamo, contento già. Io guarda, l'ho aperto, gli ho spruzzato il coso l'aria, che è tutto soffiato, poi gli ho messo lo spray per contatti del PTT, l'ho fatto andare un po', l'ho fatto muovere di modo che adesso li metto il CVC come ho fatto con l'altro, perché l'altro stesso faceva questo difetto, gli ho messo prima lo spray per contatti, non l'ho battuto, gli ho messo lo svizzolo, cosa cavolo era, adesso non mi ricordo quello che gli ho messo, però lo sbloccante diciamo, quello lì l'ha fatto perfetto, non faceva più il difetto. Ho capito cosa intendi dire, perché probabilmente il coso V40 lo rende più scorrevole, magari il PTT sarà quello, non è una questione tanto di contatto, probabilmente anche di scorrevolezza del tasto stesso, sarà quello. Va bene, dai. Avanti, Tino, ci sei? Sì, ci sono, vabbè, ma c'è un po' di... mi puoi dare qualche altro, dai, rimango in quel Rix e quando finisci magari riprendo. Sì, va bene, sì. Già sono qua in quel Rix, a meno che devo andare a prendere l'auto, il ragazzo. C'era anche Torino, Torino ci sei, c'era Meduso, al telefono, avanti Giulio. Ok, ma c'è Antonio anche, c'è Antonio Bombo, Antonio già sei rientrato, sì. Capa, caspita, adesso Antonio mi arriva più forte, 9.20, prima mi arrivava molto molto di meno. Beh, quando attaccano lineare, due ci può cadere più forte, no, è normale, non è così difficile da capire, capita. Va bene, sono contento. No, ma quello che ho notato di Tonino poc'anzi che stavo ascoltando, una bellissima radio, quello sì, senz'altro una bellissima radio. Bene, bene, sono contento per lui. Avanti Gianni. Sta uscendo con un apparecchio President, mi pare, il President stazione base, tipo anche quello che io ho venduto a te, ti ricordi, poi tu l'hai venduto a Giulio, poi ha fatto il giro da cosa, da Leoncino, te lo ricordi? Che Giulio qua? Washington. No, non mi ha venduto lui a me, no. Lui non mi ha venduto proprio niente a me. Né venduto, né cambiato, né niente. Io l'avevo cambiato con Giuseppe, l'avevo dato un Inter che a lui interessava, un marachino per utilizzarlo in macchina, e mi ha dato quello Washington, che poi io a mia volta l'ho dato a Franco California. Da Franco California è passato in mano ad altri, addirittura è finito anche in mano a Graziano, e poi non lo so che fine ha fatto. Quello è il giro, comunque va bene lo stesso, non c'è problema. Avanti a tu. Aspettate, giù, prima c'era Antonio, poi l'ha dato a Leoncino, Leoncino l'ha dato a te e poi tu hai fatto il giro che hai fatto. No, tu hai detto il contrario, tu hai detto che Antonio l'ha dato a me e poi è passato a Leoncino. Hai detto il contrario, ti stai sbagliando già. Già ci siamo capiti, era il mio quello, l'ho ordinato da fuori. Capa, mi è anche dispiaciuto un po'. Avevo saputo, però sai cos'è, che in quel periodo lì ero pieno, vero? E cosa me ne facevo? E poi c'era un po' di abbandono, cioè è successo tutto in quel periodo. Avanti Antonio Bombo. Capo, forse già sopra modulato, è che in quel periodo era un casino, era, io non avevo posto per tenerlo, perché era grande, mi è anche dispiaciuto molto di darlo. E cosa vuoi fare? Sì, vabbè, non è quello il problema è che ha fatto quel giro lì, io lo so, perché cioè, è partito da me, perché io ho preso la Continente e poi l'ha fatto a te, poi ha fatto quel giro. Cioè si sa che qua i baracchini girano uno con l'altro, poi si riscambiano, fanno e naturalmente è tra di noi, capito? Capo. Mi è dispiaciuto un po', perché non avevo posto, se no me l'avrei ancora tenuto. No, non aveva più luogo. Io l'ho avuto anche altri strumenti, quello con frequenzimetro, però non si chiamava Washington, si chiamava con l'altro nome, adesso non mi ricordo. Aveva tre strumenti più tre frequenzimetro, come il gas. Capa. Ok, dai, non lo so fare. Aspetta un attimino. Cavallo. Sì, ma già erano belli apparecchi, dai, erano belli apparecchi. Quello era President, Washington Unident, una cosa del genere, già, mi ricordo che aveva quella sigla così, in quel modo. Due strumentini, no, due, forse uno, no, forse due, boh, non me lo ricordo più, vabbè, comunque. Lo strumentino rotondo aveva, e poi niente FM, aveva solamente la banda laterale e la M, tutto lì, però andava bene, la verità andava bene. Poi io gliel'ho dato con l'MBP5, gliel'avevo dato a Franco, e poi lui ha fatto girare un po' dappertutto, credo che sia passato anche per mano a Gian Maria, credo, e non lo so, comunque. Andate, ognuno quando roba loro, con roba sua, fa quello che crede. Avanti Antonio Bombolo. Capa, ti ho mandato messaggio giù, dopo te lo ascolti. Ok, d'accordo. D'accordo, tu. Sì, ho sentito qualcosa che avevo fatto. Il telefonino è qua vicino a me, non proprio vicinissimo, comunque, a qualche metro di distanza. Va bene, non c'è problema. Io sto usando l'altro microfono, adesso Gianni, non mi ha detto niente, vuol dire che sta andando bene, dunque sono contento così. Avanti Gianni. No, sto uscendo bene, che microfono stai usando? 60. No, già sto uscendo bene, già è limpida la radio, è bella perfetta. No, se non c'è nulla si grudano. Se strappi già te lo dico, ma se no non cadono di nulla. KK. Vabbè, comunque questo qua sono molto soddisfatto di questo RUS perché è nuovo, nuovo, nuovo, non c'è un graffio, bellissimo, di un collezionista di Milano. E ha detto che per, dice che per caso di forza maggiore sta diventando un radioamatore, si è comprato degli apparecchi radioamatoriali, salvi tutti quelli che hanno in vetrina di quelli vintage. E tra cui c'era questo RUS, cazzo. Ma è bello veramente, è di lusso vero, proprio il Ruiz degli apparati. Sì, ma il Ruiz lo so, è un bel malattino, certo, lo so benissimo, a voglia, è uno fra i migliori, diciamo, dai, soprattutto come stazione base. Sì, certo, però oggi se ne trovano di tutti i tipi, se per quello si trova anche il DAC, ma ci sono prezzi proibitivi, non è possibile, cazzo, 400 euro vogliono per il DAC, forse li vale, non lo so, penso di sì, ma non solo per quello, ma anche per i microfoni, io ho letto addirittura, sempre parlando di quello che ho letto sul computer, un MC60, nuovo, costa intorno ai 160, 170 euro, cosa del genere, c'è gente che lo vende usato, 300 euro, cosa da farsi? Chi lo comprerebbe secondo me sarebbe, ma sarebbe un pazzo chi va a comprare un microfono a quel prezzo. Per non parlare poi un garage è stato un ecco, tanto per fare un esempio, c'è uno addirittura che lo vende oltre 1000 euro, guarda che macavivo è, ma quando mai uno, un baracchino che vale siano 150 euro, 200 esagerando, lo vuoi vendere a 1000 euro, ma vai, lascia perdere. Poi all'anima della persona che è amante, del collezionista di queste apparecchiature, ma uno qua deve buttare i soldi, no? Con quei soldi mi compro un bel capo, altro che garage. Avanti Antonio. È un po' troppo, ma il garage però Saturno cosa è? Male andando era sempre intorno ai 200 euro così, qualcuno 250 che mi ricordi io, ma non di più. Allora il valore del garage ne ho avuto 5, li ho sempre pagati 200 euro, ma tutti messi bene, non rovinati, roba del genere. Uno solo mi è capitato che ronzava, ed è quello che ha fatto Emanuele, tu già lo sai Giulio. Quello che non usava l'alimentatore, però tutti gli altri li ho pagati 200 euro ed erano perfetti, non ci avevano un graffio, niente, proprio nuovi, nuovi, nuovi. È perfetto, vale sulle 200 euro, c'è gente che lo vende anche 300, c'è gente che lo compra 300 euro, ma sono gente che è profana, che non conosce il valore degli apparati, capito? 200 euro si può pagare, questo Ruiz 250, caro. Sì, sono d'accordo con te, poi permesso che ognuno lo vende quanto vuole, quanto crede, e poi se ci sia una bocca, pazienza, poi è meglio. Però te l'ho detto poc'anzi, massimo 150, 200 euro, il prezzo del garage è quello, ma deve essere anche immacolato, tra l'altro, per essere 200 euro, se no è buttare su, ma non puoi vedere, aggiungo la differenza. E mi compro un capo, mi compro. Cioè, oggi copri, trovi 10 capo anche 300 euro, o 440 lo trovi anche 400 euro tranquillamente, a tua gara, sì. Avanti, Antonio. Capa, finché siamo a quei livelli lì va bene, ma cazzo, e per pagare di più c'è un parente nuovo, un bello apparecchio a vero, non è maniera bene. Allora, errore sì, l'ho visto anche a 350 euro, capito? E dipende, io mi sono pagato le spese di spedizione e mi è venuto così più o meno, perché tra spese di spedizione e i soldi che l'ho pagato, mi viene venuto sulle 2,70 così. Sì, beh certo, posso capire, ripeto, che ognuno fa il prezzo che vuole, se poi uno lo vuole comprare lo compra, però se dovessimo parlare di valore, di quanto vale realmente, a parte il discorso che uno potrebbe anche fregarsi di pagare 50 euro, 100 euro in più, questo è un altro discorso, però come valore reale è fra i 150 e i 200 euro, ma quando sia 200 euro deve essere anche immacolato, deve essere, no, non un carraggiolo, e il discorso è sempre quello già. Poi se uno riesce a ricavare di più, tanto è guadagnato per lui, e peggio per chi lo paga di più, quello che ti dico. Avanti a tu. Schiappa, quel prezzo è quello di chi sa parecchi. E lo so, io lo so perfettamente, perché lo so, l'ho sempre visto così. Se qualcuno lo vende di più, si lo bene. Se lo tiene perché con quel prezzo mi compro qualcosa di molto più interessante. Ehi, lo so, però c'è gente, vuol dire, che pur di averlo, quando le piace una cosa, spende anche 50 euro in più per averlo, capito? E quindi ne approfittano, specialmente adesso che i Galaxy si stanno riducendo letteralmente, perché si stanno quasi tutti vendendo, e chi ce li aveva non ce li ha più, quindi dipende, a mio avviso non penso che li venda, che li abbia preso per vederli, ma per tenersi. Quindi i Galaxy stanno quasi sparendo, ce n'è qualcuno in giro, ma sono pochi adesso. Lui si proprio si lascia fare con la punta delle dita, li trovi, non ne trovi più, è difficile trovarlo. Io una volta che l'ho visto lui se l'ho preso e via. No, mi è piaciuto, dai. Adesso come sta andando il microfono giù? Lo sto premendo forte, adesso mi trovo il dito ingessato. Chi, cosa è successo? Cosa? Perché il dito ingessato già? Perché a furia di premere sul cacchio di microfono, tu mi sta facendo un segno, perché c'è la portata quadrata questo microfono, capito? Se non lo premi forte, non esce di radio. Capo, mi chiedo un buon così. Lo tengo così e lui esce. Sì, già lo so, l'ho avuto anch'io. Allora, c'è uno che sta vendendo 4,40 e 140 su, non so se l'hai visto Giulio, su quei forum di CB, eccetera, eccetera. E mi ha detto che si è stufato e li sta vendendo. Se c'è qualcuno interessato, 300 euro, 140 e 400 e 4,40. Lo sto dicendo, i prezzi sono quelli, perché ti puoi immaginare se tu vai a pagare 300 euro o anche di più un Galaxy, ma fa piacere, dai, è roba da pazza. Vabbè, se uno è collezionista e gli manca magari per completare la sua collezione, diciamo che le può anche pagare, però no, tu prendi ad esempio quello che l'ha pagato 250 euro, è immacolato, quello di Claudio, è un bellissimo barattino, perfetto, alla grande. Lui ha detto che l'ha pagato 150 euro, il prezzo è quello, sarà stato anche un prezzo di favore perché è un amico, tutto quello che vuoi, però stai tranquillo, con mai più di 200, ma 200, ripeto, deve essere un baracchino senza nessun difetto, anche esteticamente, se no è esagerato un prezzo oltre i 200. Io l'ho preso così, poi, ripeto, ognuno la roba sua se la prende come crede, al prezzo che vuole, e i soldi suoi, chi la compra li spende altrettanto come crede, ci mancherebbe altro. Va bene, avanti anche tu. E si conferma. Papa, avanti Claudio. Buonasera. E si conferma, e poi è forte immacolato. Nuovo, non immacolato, cornice originale. Stavo dicendo Gianni, questo che sta vendendo questo è radio, di dove, di Sassari? No, no, di fuori qua, di fuori. Di fuori, in quel forum CB Radio Amico, roba del genere. Lasciate perdere, lasciate. Quelle radio si comprano solo a persone valide. Io ne ho venduto tante, ma nessuno mi ha chiamato a dirmi qualcosa. Vanno revisionate quelle radio prima di venderle, altrimenti la prendi nel QSO, capito? Soprattutto il 440. Non tanto il 140, ma il 440. Se non è revisionato ti lascia a piedi, capito? Deve essere revisionato. Deve avere un minimo di garanzia. Io quello che ho dato, il mio 440, l'ho revisionato da poco. C'era quello di produttore, se non dico il nome, ed è contentissimo perché funziona bene, non ha mai creato problemi. Il 140 che ho venduto, l'ultimo, arrivava dal centro assistenza, quindi ho revisionato anche quello, allora puoi dire che stai dando delle radio a posto. Ma quando tu vai a comprare un 440 fuori così, se tanti anni che non è stato revisionato, ti può durare 5 mesi come ti può durare un mese. E se arriva un po' in alto altri 200 euro, capito? A parte il fatto che è caro, 400 euro. Massimo 4,40, oggi si può pagare 3,50, 3,70, non di più, massimo 3,80, tu hai un 140 dalle 250 alle 270 euro, sono calati tanto i prezzi. KK, comunque, questo Galaxy che c'ho io è un signor Galaxy, non perché me l'abbia venduto Danilo, ma è un signor Galaxy, veramente a posto, nuovo, è funzionante in tutte le sue funzioni, ma soprattutto nuovo, mai stato toccato da nessuno. Avanti, Anto, riprendi. Purtroppo è quella la mala sorte, sì, magari tu lo compri, però poi dopo che lo compri lo devi mandare in assistenza perché non lo sai cosa è, e sono delle radio particolari. Ma quando lo mando in assistenza lo fai allineare tutto, sei sicuro che va bene poi. Cioè, è quello, infatti, quando tu hai fatto il tuo passo, che mi hai consultato, mi ha fatto piacere, io sapevo di chi era e ti ho detto prendila perché è revisionata e ti dura un bel po' di anni, poi si vedrà, capito? Come quella di Giulio, la stessa cosa, quando lui l'ha presa era revisionata non da molto, però chiaramente ti può fare 4, 5 anni, 3 anni e poi chiaramente la devi rimandare perché si abbassano la tensione del VCO e ti creano problemi, tutto lì. Vai Giulio. Certamente sì, e del resto sono radio che hanno oltre 25 anni, per cui prima o poi si sa se il problema se lo ritrovi, non si può dire di no. Sì, io mi sono permesso di dire che tu l'hai comprato a quel prezzo ed è immacolato, ma lo so che mi sono permesso perché so che tu Caraggi per così dire non ne avresti comprato di certo. Io non l'ho visto, non lo so com'è, però mi rendo conto che se l'hai comprato quel grado ti è immacolato, perché come hai sempre detto tu e poi ti conosco, se la radio non è in perfette condizioni non ne compriresti nemmeno, sia radio sia qualche altra attrezzatura, microfoni o alimentatori o qualsiasi cosa. Tutto lì. Va bene, io intanto nel frattempo mi hanno chiamato per la cena, c'è la pizza stanotte, per cui devo scendere. Ci sentiamo, grazie per la chiacchieratina, a domani eventualmente. Ciao Claudio, Gianni e Antonio, salutoni a tutti e tre, è stato un piacere sentirvi tutti e ascolto fino all'indo, dopodiché chiudo. Vai ancora Claudio, replica e poi chiudo, dai, dopo aver ascoltato Gianni e anche Antonio, vai. Ciao Giulio, dai, buona carica, quando la fai vorrà continuare di serata, dai, avanti Claudio. Gappa, tu non ti chiami Claudio, comunque ti ho fatto riprendere, va bene lo stesso, quindi hai già salutata Giulia. Ciao Giulio, buonasera, grazie, non ti preoccupare, io sono in ascolto e sono intervenuto perché sono rientrato adesso, non per replicare niente. Tu mi conosci bene e tutti mi conoscono bene, io Mondezza non dico pareggio perché non te compri Mondezza e poi ci devi rimettere quattrini. Io questa radio prima di pagarla concordato col proprietario, l'ho provata, mi è piaciuta e dopo dopodiché ho sistemato quello che devo sistemare, però ripeto, comprare un Galaxy a 300 euro è veramente una pazzia, ma veramente una pazzia, il prezzo del Galaxy varia da 150 a 200 euro, non si può pagare di più. Questo è il mercato italiano, poi ognuno, ripeto, la roba sua la vende come vuole. Non ci sono problemi, ognuno è libero di farne quello che vuole, di realizzarne quello che vuole, se poi trova il pollo che ci cade va bene, ma non tutti siamo bolli. Vai Anto per i saluti a Giulio. E capo, sono Tony e Giulio, ci risentiamo alle prossimine, ciao ciao. Adesso volevo chiedere una cosa, Ocra. Nara, sono qua, Nara. Ascolta, io ho paura, adesso gli sto mettendo un telo sopra per coprirlo bene. Ho un problema qua, entra la luce, il sole nel lucernaio. Io mi sono messo un po' di paranoia, ho paura che gli faccia male alla radio. No, Anto, il sole le fa solo bene a quella radio, non le fa male, male le fa l'umidità. E c'è Giulio che ti può correggere, male fa l'umidità del radio, circuiti stampati e quant'altro, ma il caldo non le fa niente alla radio. No, il problema è che arriva nel display. Se arriva nel display è plastica, quindi troppo schiarire, troppo bruciare, allora è bene che le metti un telo, capito? Se no cambia posizione, però se ne va il calore, il sole sopra il case non le fa niente assolutamente. L'importante è che non prenda umidità, mai umidità a questi tipi di radio, ma qualsiasi radio le fa solo male, capito? Quindi mettili un telo e copri il display. Così faccio, gli metto il telo, ricopre il display, tutte cose, anche il case, vabbè, perché è lungo, quindi lo metto sopra e via. No, qua non c'è l'umidità, c'è parecchio caldo qua su. E allora non fa niente, non ti preoccupare. Avanti, doppio. Tutto al più lo può scolorire, ingiallire il display, quello lì. Battendo, siccome lucernaio dovrebbe avere anche, deve essere una finestra che è al vetro, quindi può anche fare da lente sopra l'apparecchio, capito? Se batte di colpo così. E vabbè, ma a coperto tanto va bene, non c'è problema. Comprati Anto da Bricom, che costa una fessia, guarda che ci sono a misura, quelle sono delle tendine avvolgenti, va in casa nella battuta del lucernaio e poi la tiri e la agganci, capito? Come ti si chiamano? Bobine avvolgenti. Si chiamano tendine. Anzi c'è un nome particolare, ma già le vedi, sono a rullo lì, proprio per i lucernai. Mi comprò quella, o se non è mongo, non lo so, qualche altra cosa, non farmi entrare il caldo, a me già mi piace il caldo, la verità sono abituato, sono, capito? E sono questo che ho paura che, infatti io la copro, quando non ci sono la copro lì. La radio. Sì, come te fa anche Gianni per il display, capito? Te lo può scolorire, te lo può giallire, perché il vetro è plastica e poi è brutta la radio, capito? Poi tra l'altro a cambiare quel vetrino lì, quel plastico lì è un lavoraccio e c'è da smontare mezza radio, capito? Quindi ti conviene fare così come stai facendo, già va bene. Avanti già. Io vado avanti e vi saluto tutti che sono alla porta circale, dai. Ci sentiamo, buona continuo con SEO, buona serata. Io dopo mangio, dopo che porto il cane, quindi vi guarderò un po' di Maria De Filippo. Mamma mia, guarda, l'unico programma non è abbiate che c'è di Maria De Filippo. Io li guardo tutti, però è monotono, ci sono delle cose, a volte fanno anche un po' male. Ti fa piangere, stai facendo delle lacrime quel programma, ma già piace, dai, un po' di sentimento ogni tanto. Lo so che loro si avvalgono delle tristezze degli altri, però loro fanno udience con le tristezze degli altri. Andava. ci sentiamo, dai. Buona serata a tutti. Comunque, Tonino, Tonino, Mamma. Ma Gianni non esce più. Già, non si è uscito, non ho capito niente. Ho detto che quel microfono, quel Turner, sai, del Kick, quello lì, praticamente faceva alternata quando era a fianco all'apparato. Se tu lo togli a fianco all'apparato, lo metti sulla gamba e non ne fa. E sto pensando di fargli un calvetto come facevo al Kenwood, il calvetto di massa. Faglielo già, dalla vite che c'è che mantiene sotto, no? Quelle viti che mantengono il piatto sotto, glielo metti e glielo fai arrivare sino al connettore della radio. Brecco! Infatti farò così, c'è stato un break, mi sembra, avanti e io sono andato via, dai, ciao ciao! Mi sembra, mi preoccupo, sentire mi sembra vuol dire che sto uscendo bene. Buonasera a tutti, Marco Scorpio. Ciao bello buonasera, non è che la stai facendo bene, però mi sembrava la voce d'Antonio all'inizio, però non ero sicuro per quello. Dai, Marco, sto uscendo con il Luis, ti piace? Bene, no, va molto bene, va molto bene. Ciao Gianni, Claudio e tutti gli altri, ho sentito solo voi due. Qualcuno che salutava prima. No, ti ascolto bene, ma non mi avete invece a me come mi ricevi se di segnare. Il microfono è un microfono normale da palmo però, Sei fortissimo qua, ma. Sei chiaro Marco, dai, vi saluto che devo andare a portare a Babau. Cappa Gianni, ok, grazie, ciao Antonio, ciao Bombolo, buonasera anche a te. Vediamo un po' allora, Cla, come funziona questo cicafuso? Ciao intanto Gianni, buona passeggiata, io sono già rientrato, benissimo Marco, Radio 5 è perfetta, chiara, pulita, ordinata, effetto presenza, tonalità medio-alta, medio-bassa, altro che voi. Ok, è un Royce anche questo, è un Rolls Royce. Cappa, ma dall'auto sei? No, sono a casa e adesso ho spostato un paio di cose e ho acceso un'altra radio che era da tempo che non mettevo in funzione, volevo vederla così, questa c'ha tutte le luci verdi, al verde, è proprio al verde, vabbè. Col microfono da palmo però, non ho microfono con queste connessioni per questa radio qua. E il Royce, Gianni c'ha quello con gli strumenti a sinistra, questo invece con gli strumenti a destra, 23 canali del 74, con l'orologio meccanico diciamo, dai, tutta nera. Io ne ho volato una volta con tre strumenti e l'orologio, però l'orologio era digitale, ma tanto tempo fa, forse quando avevo comprato il 430, gappa, vanno benissimo alla grande, stai uscendo benissimo, segnale 920 abbondante, radio 5 perfetta, vai Anto. Gappa, pure a me! Stesso segnale, qualche puntino in più c'hai, ma sei 9.21, dai. Già va bene Marco, caspita, sei forte. Va bene, e questa era ferma un bel po' di tempo. Questa l'ho comprata dagli Stati Uniti, ma l'ho comprata tanti anni fa. Alimentazione, infatti avevo dovuto comprare l'alimentatore classico convertitore da 230 a 110. Credo che sia uno fra delle serie vecchie, diciamo, dei Royce, perché con lo strumento non è digitale, è meccanico, cioè proprio le rotelline, sai, tipo come quelli, insomma, di quel periodo, come il Simba, come quelli che avevano così, diciamo che dovrebbe essere forse tipo 74, una cosa del genere. questo l'ha tenuto bene, tenuto bene col suo microfono Royce originale, i legni sono decenti, è un po' restaurato, ma il frontale ad esempio è nuovo di zecca. Ne ho due. Uno era arrivato però dopo un periodo di 30 anni sottoterra, di quella serie un po' interrata, diciamo, e questo invece era perfetto, era rispondente proprio alle fotografie, mentre l'altro era versione interrata, e difatti non c'è mobile, non c'è neanche più parte in legno, cioè, difatti c'ho la radio, cioè, ce ne manca la metà. Vabbè, difatti l'ho tenuta perché capisci bene che servono questi ricavi, perché è lo stesso modello, è identico, manopole, tutto identico. Va bene, la signora mi ha chiamato per la cena. Dai, vi devo salutare, grazie delle prove del QSO, ciao a Gianni, sei ancora in ascolto, ciao Antonio Bombo, ciao Cla, a più tardi magari, dopo cena, se tanto domani non si lavora, magari un altro po' di minuti così per vederla, lascia accesa, così lascio funzionare un po'. Riprendi Cla per il QSO, Marco Scorpio QRT. Ciao Marco, buona cena con tutto, grazie a te per essere entrato, vai Anto per i saluti. Sono come Marco, ce la risentiamo alle prossimine, va. Ciao. Ia. Va bene. No, mi stavo ascoltando con questo Saletta, veramente favoloso, con questo Galaxy. Funziona veramente molto bene, infatti il padre l'ho messo da parte. L'ho messo dentro la scatola e sto usando sempre questo. Oh, benissimo, va. No, esce bene, mi sto ascoltando in cuffie con l'attenuatore naturalmente del 430 senza antenna e a potenza bassa, però funge, va bene. Un bel microfono K. No, vabbè, ma io l'avevo già sentita da Lino con questa radio e questo microfono, perché sia il microfono che la radio era la sua, quindi usciva molto molto bene, tenendo conto che lui non c'ha la spinta vocale che ho io, però esce bene, va bene. K, cosa hai combinato? Cazzo, sei contro lo gambo. Alla trave si è contro un gabbo, mamma mia, la sparo un attimo qua. Ma non si è fatta male, no? Sara, stai attenta. Perché questa casa qua va a finire basso dove c'è il letto, capito? Arriva tanto, pum! Dai, soltanto non si abbia fatto niente. Gappa, il gappa del rosmetro, va bene. Segnale buono tu di da te, il mio. A voglia, sei 9.30 e ombri. 2, 3, va, prova. A chi è? 1, 2, 3, prova. È prova accettata, avanti da Porto Torres. Prova, 1, 2, 3, prova. Stai parlando con noi o c'è il volume a zero, non ho capito. Non sono. Anche io lascio. Secondo me ho sbagliato il canale. Va bene. Cosa ti devo dire? Ma un basso mi sembra il segnale che mi stai dando, Antonio. Come mai 9.30 solo? Perché lo sai, cioè, non sta andando più di tanto, capito? Se alzi sei 9.40. No, io sono con tutta maestra. Va bene, non vai la tenuto inserito invece. No. E allora come mai mi stai dando così basso segnale? Andiamo un po'. La luce rossa è accesa. Sì, sono a manetta tu. Più di questo non posso andare. Se usi il capo mi arrivi 9.40. Dai, se no sei così, se 9.30 è qualcosa, capito? Ah, non sei col K? Sì che sono col K. Ah, ma è col K mi arrivi così, pensavo di con un'altra radio. Con un K2. Ah, col K mio, lascialo a riposo il K. Già a star bene non veggia, va bene anche questo per fare due chiacchiere, non ce n'è problema. Capo, comunque c'è più di 9.30, 9.30 è qualcosa, già basta. Il canto deve di là. Certo, se ti vuole andare come ti devi andare, allora la cosa già va da giorno alla notte. No, ma sto andando con 20... 25-30 watt della radio. Questo quando metto il power tutta maletta da quasi 30 watt, capito? Ma vedi, ciao Stava, Claudio, ciao Antonio, ciao a tutti. Buonasera Mari. Ciao Antonio, ciao anche Claudio. Radio 920, ciao Stava, Claudio, 920, radio la solita. Ok, solo per salutarvi che sono arrivato in pizza adesso, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao, ciao, grazie del controllo. Gappa gappa, comunque va bene, dai, tanto la potenza della radio è quella, tu non è che puoi tirarla di più. Anzi, quando ce l'ho comprata questo Galaxy, era la potenza tutta manetta, allora gliel'ho regolata appena appena, l'ho messa praticamente da 25 watt in con picchi a 30 in SSB, la stessa cosa in FM, la stessa cosa in AM, capito, col power al massimo. Già abbassano, e più di quel tanto non conviene, se no si fondono i finali poi. Si conferma, va bene. Dai Anto, io però ti devo lasciare perché è arrivata mia figlia. E sono già la 9.25 e vado a cenare, dai. Se ci sei ci sentiamo dopo, ok? Ciao, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao Anto. Hola, 1, 2, 3, prova di modulazione. Hola, sol, sol, sol, sol, sol, sol.